Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Si chiama Rome for Density ed è il progetto con cui il Dipartimento di Architettura dell'Università Roma III parteciperà alla Solar Decathlon 2014 a Versailles. Alla precedente edizione, con il prototipo di casa mediterranea Made in Italy, il gruppo guidato dalla professoressa Chiara Tonelli aveva ottenuto parecchi riconoscimenti e ora ci riprova. Ma questa volta c'è un doppio obiettivo, perché come vedremo non parliamo di un prototipo generico, ma al contrario di un progetto focalizzato su una ben precisa e anche piuttosto degradata periferia romana. E la vera sfida quindi sarebbe farlo diventare vero. Federico Pedrocchi ne parla con la professoressa Chiara Tonelli. Sentiamo. In una delle vostre diapositive che avete proiettato qui a Made Expo si vede a un certo punto uno sfondo dell'acquedotto romano, che però è un po' coperto da varie cose. Le periferie sono un problema in tutte le grandi città, a Roma però hanno in più la presenza dell'abusivismo edilizio. Questo è un problema non tanto perché queste costruzioni sono fatiscenti, ci si vive male, non ci sono quartieri urbanizzati intorno a questi, ma anche perché insistono in aree di forte pregio. Quindi per esempio a Roma le resistenze archeologiche sono tantissime, dalle tombe alle antiche torri medievali e appunto al segno fortissimo degli acquedotti. Abbiamo quindi scelto a simbolo quest'area della Torre del Fiscale, nella quale c'è un acquedotto romano i cui fornici addirittura sono stati superfetati per andarci ad abitare. È pieno di costruzioni di dubbio gusto che invadono quest'area. Allora, la nostra idea è quella di demolire queste costruzioni e ricompattare gli stessi volumi, anzi aumentarli, ai margini della città consolidata e poter dare così alloggio a queste persone e ad altre in complessi che si connotano come social housing, creando una rigenerazione urbana, perché questi edifici saranno edifici che produrranno più energia di quanta ne consumeranno, potranno cedere anche agli edifici preesistenti un po' di loro energia, e i quartieri che vanno ad innescarsi sono quartieri che puntano a dare soluzioni non solo per la mobilità sostenibile di connessione con la città più consolidata, più centrale, ma anche per esempio al ciclo dei rifiuti, al ciclo delle acque, che sono tutte tematiche importanti, maggiormente importanti a Roma. Abbiamo visto un po' di render, insomma, di immagini che descrivono come saranno questi edifici. Cosa sono? Case di 4-5 piani, non di più, e le unità abitative come sono? Allora sì, sono case non molto alte, ma crediamo anche che la vivibilità di un quartiere non sia data da grandi altezze, quindi al massimo raggiungiamo i 7 piani, perché lì ci sono delle torri medievali che hanno questa necessità di essere un po' riprese nei volumi di questi edifici, e poi mediamente siamo sui 4. Sono appartamenti tutti di taglio piccolo per andare a rispondere nel tema della densificazione urbana a un problema di Roma. Roma ha grandi appartamenti di grandi dimensioni e mancano gli appartamenti di piccole dimensioni. Oggi però le famiglie sono monoparentali con pochi figli, molti divorziati, molti single, molti anziani, e quindi semmai le famiglie rumorose sono solo quelle multiculturali, cioè che provengono da altre realtà. E quindi andare a rispondere a una densificazione non più per numero di persone che insedio ad ettaro, ma per numero di alloggi, è un nuovo parametro di densificazione. Quindi case che saranno accessibili a prezzi assolutamente buoni e allo stesso tempo però con una soluzione tecnologica che è addirittura casa passiva. Sì, allora sono case accessibili economicamente perché sono case, appunto, le definiamo in social housing, quindi potranno andare sui 1000 euro a metro quadro il costo di costruzione. E a questo punto quindi parliamo di la possibilità di aprirle a diverse categorie di persone, però quello che ci piace dire è che vogliamo che queste case siano altrettanto confortevoli, altrettanto buone dal punto di vista della sostenibilità di quelle che si potrebbe permettere qualcuno che ha più possibilità economiche. Per questo progetto siete già in contatto col comune, l'area ci sarebbe? Bella domanda, questo progetto è nato e nasce per le istituzioni non sono insensibili, non vorrei essere del tutto scorretta, sicuramente stiamo aspettando da loro un segnale molto più efficace e serio, perché le aree sulle quali stiamo lavorando sono aree su cui il comune ha manifestato un interesse a che vengano risolte. Ci aspettiamo adesso che, insomma, questo si concretizzi in un segnale anche, chiamiamolo, concreto. Sì, perché se poi non lo vediamo ce l'abbiamo tutti. Esatto. Insomma, un progetto che interviene sul tema periferie ed edilizia a basso costo, un tema quindi piuttosto urgente. Speriamo che vada in porto. Noi ci fermiamo qui, appuntamento a domani.